640. Torta di zucca gialla. Questa torta si fa d'autunno o d'inverno, quando la zucca gialla si trova in vendita dagli ortolani. Zucca chilogrammi 1, mandorle dolci grammi 100, zucchero grammi 100, burro grammi 30, pangrattato grammi 30, latte mezzo litro, uova numero 3, una presa di sale. Odore di cannella in polvere. Sbucciate la zucca, pulitela dai filamenti superficiali e grattatela sopra un canovaccio. Prendete le quattro punte di questo per raccoglierla insieme e strizzatela in modo da toglierle buona parte dell'acquosità che contiene. Il chilogrammo si ridurrà a circa 300 grammi. Mettetela allora a bollire nel latte fino a cottura, che si può ottenere dai 25 ai 40 minuti, secondo la qualità della zucca. Pestate frattanto le mandorle già sbucciate, insieme con lo zucchero, in un mortaio, riducendole finissime, e quando la zucca è cotta, uniteci tutti gli ingredienti meno le uova, che aggiungerete quando il composto è ghiaccio. Per il resto, regolatevi come per la torta di ricotta del numero precedente.